Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto e un augurio di buon Natale da Armando Torno. Tra un'ora scatterà la magica notte di Natale, quella che sarà l'ora del 25 dicembre, e noi vi accompagneremo con la musica. In studio abbiamo Anastasia Petrisciak, che è tornata a trovarci dopo il concerto che ha tenuto in Sant'Ambrogio a Milano, e Carlo Rubbi, che ha accettato ancora di essere con noi, anche perché utilizziamo per fare gli auguri in diretta questa sera un brano registrato a Venezia nell'ottobre scorso, proprio organizzato da voi, dalla Fondazione Rubbi, che protegge il nostro patrimonio artistico. Carlo Rubbi, cosa può dirci di questo concerto al Palazzo Pisani Moretta? Ma io credo che sia stato veramente un qualche cosa di così bello, di così sentito, di così emozionante, che io oggi vorrei regalarlo a tutti gli ascoltatori di Musica Maestro, perché ecco, è un piccolo modo per sottolineare l'importanza di quello che noi abbiamo. Parliamo di musica, parliamo di Venezia. Venezia è il simbolo stesso del nostro straordinario e unico patrimonio culturale, storico, artistico, e credo che in questa notte un po' magica, ecco, la magia di Venezia dovrebbe riuscire a raggiungerci con queste note. Certo, tra un'ora, mentre scorre il tempo, noi arriviamo lentamente al Natale. Anastasia, cosa può dire di questo concerto? Cosa si ricorda? Lei l'ha realizzato appunto con Meo, no? Esattamente, abbiamo suonato diverse musiche con Lorenzo Meo al pianoforte. Ascolteremo, sì, tutto quella sonata per violino, e piano di Mozart, la K54, cioè tutta, proprio i tre tempi, esatto. Largo, allegro, andante, allegretto. È una sonata in si bemolle maggiore, KV454, scritta per Regina Strinasacchi. A quell'epoca era una violinista, una grandissima violinista. C'è un aneddoto, una leggenda molto simpatica, che appunto dice che durante la prima esecuzione di questa sonata, Regina Strinasacchi aveva la sua parte ben scritta, mentre Mozart, che l'accompagnava, che suonava insieme a lei, aveva soltanto un unico foglio, metà bianco, metà scritto. E quindi improvvisava in un certo senso. E allora, per fare gli auguri di Natale, l'ascoltiamo tutta, un po' di musica insieme. Ecco Mozart, questa sonata per pianoforte e violino.

era la sonata per violino e pianoforte K454 di Mozart. Linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, per cui uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira, ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Musica Maestro. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24 in questa notte di Natale, mentre si avvicina l'ora fatidica della mezzanotte, quando appunto si apre il 25 dicembre, noi diffondiamo musica, vi invitiamo ad ascoltare appunto qualche brano, qualcosa, e questa volta ci ha accompagnato in studio, proprio approfittando della loro presenza a Milano, del fatto che insieme abbiamo fatto gli auguri di Natale, Carlo Rubi e Anastasia Petrisciak. Diciamo così, per cortesia avrei dovuto dire Anastasia Petrisciak e Carlo Rubi, però mi perdonate perché è notte, quindi è tutto inoltrato. Anastasia, abbiamo fatto ascoltare questo concerto di Mozart che lei ha suonato proprio per la fondazione Rubi a Venezia, e diciamo, siccome ci siamo impossessati del disco, molto signorilmente Carlo Rubi ha detto, in fondo lo doniamo agli ascoltatori, in realtà l'avevamo già un po' rubato, ma è Natale, quindi ce l'hanno perdonata questa marachella. Tenga conto che però, come si fa a fare il Natale senza Bach? Lei cosa ne pensa di Bach? Credo che Bach sia uno dei compositori, uno dei più grandi compositori a cui tutti hanno fatto poi riferimento. Soprattutto a Natale io consiglio, io stessa ascolto tantissimo Bach, tantissima musica di Bach, perché credo che sia quella che si avvicina più all'anima, a questo clima, a questa festa. A questa festa. Allora, adesso noi chiediamo un prestito non a Carlo Rubi, ma alla musica, e anzi andiamo... Poi mi dirà le sue impressioni. Andiamo con l'Arnold Schoenberg Chor, con il Concertus Musicus di Wien, e sotto la bacchetta di Nikolaus Harnoncourt. E ascoltiamo in questa registrazione della Deutsche Harmonia Mundi il concerto di Natale, così come inizia questa esplosione di suoni, di gioia, questo uso di timpani, di trombe, questo momento magico che Bach ha saputo dare nella prima cantata del Natale, cioè nell'oratorio di Natale. Eccolo. è sempre emozionante l'oratorio di Natale, non so Carlo Rubi cosa può aggiungere, da sicurezza, ecco, non so. Sì, deve, diciamo che sicuramente è forse la musica che più ci immerge nell'atmosfera del Natale, questo insieme di suoni, queste voci, questa grande potenza di questa musica, credo che sia veramente qualcosa di unico e che ci porta subito a pensare a tutto quello che di bello rappresenta il Natale. Adesso facciamo un omaggio, diciamo così, indiretto ad Anastasia. Anastasia la consideriamo ormai italiana di fatto, perché ama l'Italia, i suoi concerti avvengono in Italia, usa con infinita competenza gli strumenti italiani di Stradivari, di Guarneri, eccetera. Ha questa possibilità di attingere appunto al grande patrimonio di Cremona. In ogni caso però c'è ogni tanto qualche ricordo del mondo slavo, dell'Ucraina, eccetera. Allora, lei pensi che io ho trovato questa Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, rito bizantino slavo, e volevo farle ascoltare, volevo far ascoltare a lei, a Rubi, ma a tutti coloro che ci seguono in questa notte, magari correndo in macchina chissà dove, però è la notte di Natale, l'inno dei cherubini e la grande entrata. È un coro ovviamente di Sofia, un coro ortodosso, quindi lei si ricorderà magari di questi cori ascoltati in Ucraina, sotto la bacchetta di Rushkov. Poi una registrazione che è avvenuta un po' di anni fa, perché siamo nel 1976 nella Germania dell'Est, quando c'era ancora appunto la Germania divisa. Tutto questo è stato realizzato dall'Armonia Mundi, che ringraziamo, ma vediamo un po' come questo coro, secondo la Chiesa Ortodossa, dei cherubini. Oh. Vossi servono cestivi chi proslavni cristian, dopo me nel gospod Bogo carstvi suem, seg domine prisno, vivo vecchi vecov. Amin. Anastasia, che impressione le ha fatto questo coro di cherubini che viene dal mondo slavo-bizantino? È una bellissima interpretazione. E a me piace tantissimo il suono del coro, la musica che si fa appunto con la voce. Infatti io stessa avevo iniziato a studiare canto, ho cantato tantissimo anch'io in coro ed è un'emozione bellissima, credo, che tutti i musicisti devono affrontare. Allora, nel fare gli auguri di Natale, Carlo Rubi, possiamo chiedere a lei se ha fatto bene a così diventare violinista o se forse doveva continuare il canto. Cosa ci può dire, insomma? Beh, in questa notte di Natale bisogna dire la verità, eh? Io non so se abbiamo perso una grande cantante, sicuramente abbiamo guadagnato una grandissima violinista. Ecco, e soprattutto io vi ringrazio per la vostra disponibilità. Questa è una puntata un po' particolare, un po', diciamo, fuori dalle righe della nostra trasmissione, fuori dagli schemi, ed è solo per fare gli auguri a tutti coloro che ci seguono. E così io vi ho chiesto di essere qua con me questa notte, questa sera, e avete accettato. Io di questo vi ringrazio. Vi ho già sottoposto a uno sforzo una puntata precedente, ma non potevamo fare un Natale, diciamo così, solo in parte, quindi abbiamo amplificato il Natale. Come si fa adesso ad arrivare alla mezzanotte, quasi alla mezzanotte, senza la tromba? E allora con Gábor Tarkovi, che è un trombettista abbastanza noto, ascoltiamo adesso un'interpretazione che mi sembra ben riuscita, ma particolarmente affascinante, di Johann Baptist Georg Neruda, ed è un concerto per tromba e orchestra. Ascoltiamo l'allegro che lo apre. È un concerto, diciamo così, che in qualche modo richiama molte gioie, come la tromba richiama le adunanze, che so io, i momenti solenni, la presenza di qualcuno di importante. Beh, le trombe chiaramente annunciano addirittura l'incarnazione di Dio. Pensate un po', il Natale è la cosa più straordinaria, pensandolo con la nostra povera mente, insomma. Ovviamente bisogna avere anche un po' di fede, altrimenti è impossibile fare questo salto. Però in una notte di Natale mi sento di dirlo, insomma, questo salto la tromba aiuta a farlo. Thank you. E dopo questo allegro di Johann Baptist Georg Neruda, cediamo la linea alla regia e, augurandovi di nuovo buon Natale, vi do appuntamento tra qualche minuto per continuare in alcuni momenti di questa notte magica, particolare, santa, il nostro incontro con la musica. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati, è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Musica Maestro. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, in questa notte. Buon Natale innanzitutto. Stiamo appunto dedicandovi un po' di tempo, un po' di musica, un po' di Natale. In studio con noi ci sono Anastasia Petrisciak e Carlo Rubi. Carlo Rubi, che ha lasciato, diciamo così, un po' anche la famiglia eccetera in questi giorni per correre qua alla radio. Lei protegge i beni culturali e questa sera protegge un po' le orecchie degli ascoltatori. Beh, diciamo che è un bel proteggio, perché diciamo stiamo ascoltando della musica veramente molto molto bella che ci immerge nell'atmosfera di Natale. Adesso ci portiamo nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove Anastasia con l'Orchestra Cantelli ha realizzato appunto il concerto di Natale per la Fondazione Rubi, e noi qua stasera ne riprendiamo una parte perché allarghiamo un po', diciamo così, la platea degli ascoltatori. Quella sera in Sant'Ambrogio è stato un momento magico particolare, e ora facciamo ascoltare, interpretato da lei, che dice, l'ha detto prima, l'ha confessato, le piace molto Bach, ma lei lì ha eseguito l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. E allora adesso la facciamo ascoltare. Ci può fare solo una piccola presentazione, un piccolo commento, Anastasia? Certo, l'aria sulla quarta corda, come appunto noi conosciamo, faceva parte di una suite numero 3 che Johann Sebastian Bach ha scritto, ed era scritta interamente per un complesso d'archi. In questo caso ascolteremo una versione per violino solo con appunto l'accompagnamento di un'orchestra, che è stato trascritto da un compositore violinista tedesco successivamente, ed è stato trasportato nella tonalità di Do maggiore, quindi eseguito tutto interamente sulla quarta corda. Magnifico, ecco allora questa aria sulla quarta corda. Thank you. Era l'aria sulla quarta corda del concerto in Sant'Ambrogio della Fondazione Rubi, eseguito da Anastasia Petrisciak con l'orchestra Cantelli, il concerto di Natale che noi questa sera abbiamo un po' adottato, invitando proprio i protagonisti, coloro che l'hanno organizzato, che l'hanno eseguito. E poi so che avete fatto, qui mi riferisco a Carlo Rubi, le quattro stagioni di Vivaldi, no? E beh sì, diciamo che abbiamo sentito questa musica che credo faccia parte ovviamente del patrimonio culturale del nostro paese. Devo dire che ascoltate nella chiesa di Sant'Ambrogio, che è veramente un po' il simbolo di Milano, il simbolo della cristianità di Milano, in questo ambiente estremamente suggestivo nella prossimità del Natale, hanno un fascino ancora più forte. Noi le faremo ascoltare agli ascoltatori, ovviamente abbiamo come al solito preso questa registrazione, Anastasia, per cui non se ne abbia, ecco, ma le chiediamo una piccola presentazione. Noi abbiamo pensato di far ascoltare l'inverno, lei è d'accordo? Certo, assolutamente, direi che è la stagione giusta. È la stagione giusta per ora, per ma ora. Lei cosa preferisce, l'estate o l'inverno? Ma io le preferisco tutte, ovviamente sono particolarmente affezionata all'inverno, indipendentemente dall'inverno di Vivaldi, proprio alla stagione di inverno, alla neve, al freddo, che mi riporta un po' quando ero bambina, quindi a ricordare certi, anche il suono della neve, quando l'inverno è talmente freddo e secco, tu senti questo suono magico, questo suono incredibile, che viene descritto anche dallo stesso Vivaldi all'interno della stagione dell'inverno. E quindi allora ascoltiamo l'inverno di Vivaldi con l'orchestra Cantelli e con Anastasia Petrisciak al violino, eccolo. Thank you. eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori. Dopo questo inverno di Vivaldi chiudiamo questo nostro incontro nella notte di Natale. Mi sento molto, insomma, un pastore che va verso la capanna, e ho coinvolto anche Anastasia e Carlo Rumi. Anastasia Petrisciak mi scuserà, ma sa che nei presepi non c'è mai una violinista che va, e stasera l'abbiamo aggiunta? E poi abbiamo in fondo una persona che organizza, che dirige una fondazione, che effettivamente è bello aggiungere anche che sono io, un industriale al presepe. Questa notte l'abbiamo fatto in fondo, Carlo Rubi. Beh, insomma, il presepio rappresenta un po' l'umanità, e quindi è giusto che ci siano un po' tutti i personaggi. Ecco, ma c'è un finale che noi abbiamo catturato appunto nel concerto di Sant'Ambrogio, che riproponiamo qui, e che è l'Ave Maria di Schubert con Anastasia al violino. Due parole per questa magica Ave Maria. Direi che tutti, è un brano che tutti conoscono, che tutti hanno imparato a conoscere, e che quindi non necessita di particolari introduzioni e spiegazioni. Credo che semplicemente chiudendo gli occhi e ascoltandolo si riesce a percepire la magia e la poesia e l'anima che c'è dentro questo brano. E allora ascoltiamo questa Ave Maria di Schubert con Anastasia Petrisciak al violino e l'orchestra Cantelli. Thank you. Beh, ora non ci resta che ripetere gli auguri di Natale. Da parte mia, in questa puntata speciale, li faccio a tutti coloro che ci hanno seguito fino a qui, magari correndo su una strada oppure rientrando, che so io, dopo una giornata, che il Natale anche delle giornate faticose. E ringrazio Anastasia Petrisciak per essere stata con noi e Carlo Rubi per avermi accompagnato anche in questa piccola gita da presepe nella notte di Natale. Allora, buon Natale a voi cari ascoltatori, buon Natale da Carlo Rubi e da Anastasia Petrisciak.